Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 3 giorni agli europei, 5 a Italia-Spagna, azzurri in partenza per la Polonia dopo l'ultimo allenamento di stamane a Coverciano. Il punto della situazione con il professor Adalberto Bortolotti. Buon dia Adalberto. Buongiorno caro Gigi e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, senti, io ti chiedo in partenza da dove cominciare, perché insomma mi pare che di angoli di visuale non ci sia che l'imbarazzo della scelta. C'è una questione morale, c'è una questione tecnica, c'è una questione tattica, c'è una questione psicologica, ce n'è davvero da vendere, e quindi scegli tu il punto di partenza e poi noi andiamo. Ma direi la questione morale dovrebbe renderci ottimisti, dati precedenti, sì, no? Freschi tutto sommato, sì, mondiale del 2006. La questione tecnica preoccupa alquanto, a me personalmente preoccupava già un po' in partenza, cioè con tutto il rispetto per il lavoro svolto sin qui da Prandelli, non tutte le sue ultime scelte mi hanno convinto, ecco. Sì. Mi sembra in particolare che un attacco privo di una vera prima punta per un torneo a lunga durata, tutto sommato, sia un po' rischiosa. E poi la strada è andata un po' complicandosi via via, perché anche l'ultimo infortunio che appieda Barzagli, probabilmente per il torneo, ma speriamo che lui guarisca in fretta e che noi arriviamo in fondo, così c'è il tempo magari di vederlo, priva forse del difensore più affidabile insieme a Chiellini, sicuramente il protagonista della difesa juventina campione d'Italia. Quindi tutto sommato direi una cosa: è bene che cominciamo con la Spagna, perché questo è il momento per noi più delicato. Se toccando ferro perdi con la Spagna, è praticamente normale, lo puoi fare anche con una squadra in forma e hai il tempo magari di rimetterti in sesto per prendere la qualificazione nelle altre due partite, che però non sono facili, ecco. No, non sono facili per nulla, però è vero, con la Spagna hai molto poco da perdere, è chiaro che poi sei costretto a vincere le due successive che non sono facili, ma in questo momento credo che un esordio con Croazia o Irlanda sarebbe stato persino più complicato per l'obbligo, no, di dover vincere. Io personalmente, fossimo andati all'inizio contro l'Irlanda, per me sarebbe stata la cosa peggiore, ecco, perché io credo che l'Irlanda non sia una grande squadra, ma se non altro per le caratteristiche del suo condottiero non ti regala sicuramente nulla, e se devi prenderle qualcosa devi fare una gran fatica. Sì. Ecco. La Spagna non mi sembra onestamente nel suo momento migliore, anche perché le sue squadre guida vengono da una stagione particolarmente onerosa, piena di guerre fratricide su tutti i fronti, di campionato, di coppa, di Champions, insomma in pratica si sono abbastanza svenate, e a differenza magari delle nostre, le squadre guida spagnole sono abbastanza fornite di giocatori spagnoli, ecco, quindi è un discorso che per noi potrebbe essere non così importante, perché non so, c'è un Inter dove trovare un italiano è già un'impresa, eccetera. Io non, per me la Spagna non è il primo favorito di questo europeo, anche se concordo, fossi un bookmaker dovrei comunque dargli la quota più bassa. Io credo che una Germania, un'Olanda siano al momento attuale più affidabili, anche se poi sono nello stesso girone. Sì, c'è anche una serie di precedenti per cui non è infrequente che la squadra campione uscente cada al primo appuntamento. Questo è successo spesso in passato, sia agli europei che forse più ancora ai mondiali. Le quote ultime aggiornate dei bookmaker sono 3,75 la Spagna, ma subito a 4 la Germania. Queste sono le due grandi favorite per i bookmaker. Poi arriva l'Olanda a 7, la Francia a 10, l'Italia e l'Inghilterra a 12. Segue il gruppo A. Io credo che l'Inghilterra, ad esempio, non faccia una grande paura. Non mi pare, ha delle rinunce, ha uno nucleo storico abbastanza anziano, diciamo, non si intravedono grandi fenomeni all'orizzonte. No, no. A loro volta le squadre guida non sono ricchissime di giocatori inglesi, Manchester City sì, offre il portiere, e il centrale difensivo magari, però il suo nucleo importante è stato fatto da giocatori non inglesi. Certo. E tutto sommato non la vedo. Piuttosto c'è un argomento così che mi stuzzica. Mi pare che l'ultimo periodo abbia vissuto su vari fronti, che poi magari elenchiamo, una rivincita, se vogliamo usare un termine vilipeso per me a torto, del nostro vecchio catenaccio. Uh-huh. Perché il Chelsea, che ha vinto la Champions League, onestamente ha sviluppato, forse non poteva fare altro, e siccome il risultato l'ha premiata, io mi inchino sempre, ha mostrato un calcio difensivo di cui noi un tempo ci saremmo persino un po' vergognati. Sì, ecco. Tantinello. Penso soprattutto alla partita interna col Barcellona, dove non hanno passato la metà campo se non per fare il gol vittoria, insomma, certo. È un onore a loro. Dopodiché vedevo anche, ad esempio, per andare nel piccolo, nella nostra playoff di Serie B, la Sampdoria è arrivata in finale con due partite in cui praticamente ha giocato quasi sempre asserragliata in area. Sì, sì. Mi pare che ci sia un po' in giro, in patria e fuori, una ventata di ritorno di un difensivismo che soprattutto quando è applicato da grandi squadre è pericolosissimo. Ecco, perché l'equivoco in cui si cade è pensare che il catenaccio sia una prerogativa della squadra debole, che invece quando si difende normalmente perde. In realtà il catenaccio diventa micidiale quando è applicato da squadre con grandi giocatori, dall'Inter di Foni prima e di Herrera poi, via via discendendo. Sì. E anche il Chelsea, è chiaro che quando tu ti metti in trincea poi davanti ai Drogba è un'altra cosa, insomma. Questi sono rimandi storici su cui riflettere, ce ne sono anche agli europei di presidenti del genere. Della Grecia, il catenaccio Dellas, che risorgeva dalle ceneri dopo una ventina d'anni. È vero, il catenaccio della Grecia fu qualcosa di storico, a modo suo anche quello danese del 92, sì, già era più eclettico, un tantinello. Quindi, ecco, questo magari complica anche un pochino il pronostico, perché non vorrei che questo modello spagnolo, e in particolare catalano, che poi si è trasferito giustamente alla nazionale, anche perché molti interpreti sono gli stessi, non vorrei che stesse vivendo un momento di, come dire, di stasi, ecco, come se tutti avessero un po' imparato a conoscerlo e adottassero le misure giuste. E quindi fosse il momento, come già lo è stato in Coppa Campioni, di una restaurazione in un certo senso. Il primo intervallo di oggi, poi arriviamo un po' più strettamente in dettaglio sull'Italia, il traffico. L'Italia che lascia un po' perplesso ad Alberto Bortolotti, non solo lui per la verità, qualche scelta, qualche necessità adesso, perché indubbiamente Barzagli era l'uomo più rassicurante dell'intera difesa, bisogna parlarne al passato da un punto di vista di utilizzazione in questo europeo, perlomeno nella prima fase, benissimo che vada. Però ad Alberto Bortolotti faceva accenno anche a qualche perplessità in attacco, dice: manca certamente una prima punta e in effetti non c'è in organico, la deve fare Balotelli, perché tutti gli altri, Borini, Di Natale, Giovinco, oltre a Cassano, sono tutte soluzioni di altre con altre caratteristiche. In particolare in quella partita con la Russia mi è sembrato ad Alberto, anche nelle fasi migliori dell'Italia, che poi non sono state tante e non sono durate molto, ma anche nelle fasi migliori mi è sembrato che, mentre però Balotelli sia per fisico che forse temperamento no, ma per fisico si riesce a calarsi in una parte, mi è sembrato invece rivedere Cassano indietro, ma proprio un po' tanto indietro di condizione. Sì, un po' tanto indietro, e poi forse egli stesso un po' in un contesto non più abituale, ecco, perché la mancanza poi di una punta di riferimento per Cassano è una novità, sì. Diciamo, ecco, che lui si sostituisca poi a una punta. Cioè, Cassano dà il meglio quando può creare a vantaggio anche proprio, ma soprattutto di altri. E lì Balotelli, d'altra parte, viene da un'annata che fra i suoi alti e bassi disciplinari, ma in campo ha quasi sempre fatto bene, l'annata inglese, in una squadra che è ricca di prime punte, come sì. I City di Mancini, al punto che ne deve dolorosamente sacrificare parecchie sempre in una partita in cui lui ha quasi sempre giocato in appoggio partendo dall'esterno, insomma. Fosse Dzeko all'inizio, Tevez dopo, lo stesso Aguero che è più punta di lui, più punta d'area, insomma, di lui. Quindi mi sembra un attacco che stenti. Lo stesso Pirlo è stato abituato a dirigere squadre diverse, cioè sì, con attaccanti. Dal Milan alla Juventus con attaccanti d'area, ecco. Infatti il miglior Pirlo con la Russia si è visto in quella magnifica azione del primo tempo, quando Balotelli gli ha dettato un movimento, certo, di taglio centrale, lui l'ha pescato col radar come sempre, e Balotelli tra l'altro ha concluso benissimo, ha fatto una grande parata il portiere. È stata un'azione splendida, peccato però che forse simboleggia l'unico nostro modo di attaccare, ecco, e non sempre poi ti può venire tutto bene così, ecco. Vabbè, io onestamente ci avrei pensato prima di tagliare destro dico, sì, perché nell'elenco era rimasto l'unico, sì, sì, è vero, esponente di un certo giocatore che ti può dare anche la risorsa di andare sulle fasce e buttarla in mezzo, ecco. C'è dubbio. Intanto Sarri Terrani ha già subito levato il servizio alla tedesca, a Roland Garros, e questo è un bel segno. Più tardi è bello questo scricciolo contro questo, è vero, è bella quando uno rovescia un po' la tendenza, perché pareva che le donne non potessero giocare al tennis sotto l'1,80 ormai. Certo. Questo è che piccolo, sottile, ma ha un senso tattico eccezionale. Esatto. Non si sa dove potrà arrivare, però ha già fatto tantissimo. E infatti, poi tra un po' ci dedichiamo a lei. Certo che se prendiamo l'ultimo test, quello della Russia, quello che davvero ha fatto sensazione è vederli entrare come il burro nella nostra difesa, non solo alla fine, quando poi Maggio ha sbracato, De Santis gli ha dato una mano, insomma già nel primo tempo ci hanno fatto a fettine con quelle hanno combinazioni. Hanno sbagliato tanti gol. E quindi ogni volta che affondavano creavano una palla gol, questo è veramente preoccupante, anche se magari gli ultimi due li hanno raccolti per graziosi omaggi. Sì, ma, sì. Ma sai, i numeri non sempre dicono la verità, ecco, questo io credo sia una delle forze del calcio, che sfugge alle leggi un po' aride della matematica. Ora, noi avevamo, secondo gli europei, una difesa straordinaria a numeri, sì, per le qualificazioni europee, ha subito pochissimi gol. Due gol, era il primato di tutti i gironi. Era la miglior difesa degli europei. Ora, è chiaro che poi uno leggeva i nomi, guardava, non era vero, ecco. Diciamo la verità, non è vero purtroppo. In più ci sono giocatori come Maggio, ad esempio, che vengono da un'annata molto, molto, molto impegnativa sul piano fisico e poi che sembrano nati per giocare come gioca nella sua squadra, con una difesa a tre, sì, cioè gli lascia il governo della sua fascia, ecco. Lì una difesa 4 dove deve fare le diagonali difensive eccetera mi sembra un po' più a disagio. Io devo dire, mi intriga questo, non so se avrà un seguito, questo tentativo un po' guardiolesco, direi, di provare una difesa 3 con De Rossi in mezzo, che sarebbe il mascherano De Noantri. Il mascherano De Noantri è carina, indubbiamente carina. Il mascherano De Noantri, che avrà al fianco Bonucci, sempre che non capiti nulla in procura, sì, ovviamente. Avrà al fianco Bonucci da una parte e Chiellini dall'altra. Avrebbe a quel punto Maggio e X, sì, forse Balzaretti, forse Balzaretti, qualcuno, no, dice addirittura Giaccherini, belli belli larghi, sì, e poi più compatti in centro, Marchisio, sì, Pirlo e Thiago Motta. Pirlo a governare con Marchisio e certo, e chi, insomma. non mi convince del tutto Montolivo, perché è un giocatore a cui non riesco a dare una sistema una dimensione è. Sa fare tante cose, ma dovessi dire una che fa benissimo sarei un po' in difficoltà. Sì. Beh, insomma, vediamo come rimedia Prandelli, anche se indubbiamente non sarà molto facile. Ti convince di più, e così poi concludiamo e sentiamo gli ascoltatori che cosa ne pensano, ti convince di più questo tentativo di ripiego a tre, sia pure in extremis, anche per infoltire quel centrocampo, perché il centrocampo visto con la Russia, loro bravi palleggiatori, loro forse più avanti di condizione, ma certamente era nella nostra tre quarti che ci facevano a fettine. Sì, poi risolverebbe poi un problema, perché De Rossi, a parte che il centrale l'ha fatto con Luis Enrique quest'anno, no? Sì, spesso. Sì. Ma quando è a centrocampo è abituato a fare quello che fa invece Pirlo in nazionale, cioè essere un po' il riferimento del gioco. Ora così avremmo due registi, uno arretrato e uno un po' più avanti, e potremmo un po' infoltire il reparto di interdizione, di corsa, che mi è sembrato contro la Russia accusare non solo un gap fisico, ma proprio anche numerico. Eravamo in inferiorità di tono atletico, ma anche in inferiorità numerica spesso. Certo. Sì, indubbiamente De Rossi anche a questo si presta, ma forse potrebbe essere una buona collocazione per lui, anche perché ho l'impressione che il grande centrocampista, il grande incursore che De Rossi è stato, da qualche tempo non sia più. Sì, sai, dovremmo dire allora che Luis Enrique non aveva capito nulla, perché se ha molto nicchiato a usarlo nella posizione in cui che ci sembrava la sua, forse non lo ha visto più fisicamente, atleticamente in grado di dare il meglio in quella veste, ecco. Sì. E gli ha ritagliato un altro spazio che è stato anche prezioso, insomma. Adalberto, vediamo. Sarebbe interessante, oltretutto. Certo. Così come, guarda, io ti dico, se dovessi, visto che con la Spagna ti puoi permettere qualche licenza, io giocherei con De Rossi e da una parte Chiellini e dall'altra Ogbonna. Visto che è lì, ha fatto un campionato bello, mi sembra atleticamente adattato. Dopodiché, vabbè. Sono due mancini, però. Sono due mancini, hai ragione, perché anche Ogbonna. Sono due mancini, dato che De Rossi ha bisogno di averne uno per parte. Sì. Sì, è vero. Forse quello sarebbe il problema. Se no, anche l'altra sera quando è entrato Ogbonna la sua figura l'ha fatta, sia pure... Mi sembra uno di quelli più vispi, ecco. Sì. Sì. Vabbè, insomma, stiamo a vedere. La settimana prossima cominceremo a ragionare a voce alta sulle prime risultanze. Sperando che, appunto, affrontando la partita con tutta la leggerezza d'animo necessaria, magari facciamo l'impresa. Adalberto, grazie. La prima volta. Grazie, alla prossima volta. D'accordo, a risentirci, ciao. Ciao professore. Dunque, le 14.26, forse non c'è tempo per mettere in onda i primi prenotati all'800240024. Dicevo dell'ultimo momento di allenamento di stamana a Firenze, Balotelli a parte, a scartamento ridotto per via di quell'affaticamento muscolare. Molte prove tattiche. In particolare proprio con De Rossi, centrale difensivo. Qualcuno mi fa notare che De Rossi quest'anno ha giocato la centrale difensiva in una difesa a 4, bah, insomma, a 4, a 3, a 2, dire come fosse la difesa della Roma quest'anno. I numeri li ha dati tante volte, ecco, poi quali fossero quelli esatti si può discutere. Luca scrive: ma Mascherano è il punto debole della difesa del Barcellona. Boh, insomma, sul punto debole credo che ci si possa un po' intendere. Mascherano ha fatto un errore gravissimo, indubbiamente in un'occasione in particolare con il Chelsea. Forse non è stato il baluardo della stagione precedente, ma tantomeno lo è stato Piqué allora. Punti deboli come quelli forse ne vorrei avere. In ogni caso, il parallelo che Bortolotti faceva partiva dal ruolo di vocazione. Mascherano è un centrocampista centrale, difensivo, con facoltà di di incursore, anzi convocazione al, da incursore, che poi si è trasformato invece in un centrale difensivo, un po' per necessità e un po' forse per avanzamento di carriera. Abbiamo anche delle voci da ascoltare, forse facciamo in tempo a sentire un frammento, un breve frammento di Barzagli sul, proprio sul suo infortunio. Dopo la partita sinceramente ero abbastanza, speravo non fosse niente, poi sabato invece zoppicavo vistosamente, oggi invece c'era molto meglio, quindi, yeah. Sì, però appunto dopo la partita un fastidio, sabato fermo, zoppicava vistosamente, era proprio il caso di un allenamento tirato lunedì, ma se l'ha fatto sì, io credo che di autolesionisti non ce ne siano tanti in giro, ma certo la cautela magari avrebbe suggerito qualcosina di più tranquillo. Le borse, qualche problema fisico anche per la Spagna, stamane l'attaccante Jesús Navas, che non è titolare ma è una buona carta da giocarsi per Del Bosque, l'esterno destro d'attacco del Siviglia, si è infortunato ad una mano e accertamenti radiografici oggi prima della partenza che per loro è imminente, partono esattamente per, come l'Italia, per il ritiro polacco. Arbeloa, difensore Real, con qualche problema di contratture, e Fabregas del Barça, che si è appena aggregato alla comitiva perché è convocato dopo, ma è fermo dalla finale di Coppa del Re vinta sul Bilbao. Attenzione alla Francia, scrive Alfonso Mazzarelli, ho visto la partita con la Serbia, mi ha davvero sorpreso, può essere la rivelazione del torneo? Sì, entro certi limiti, nel senso che la Francia non può essere una squadra che sia pure con qualche basso negli ultimissimi tempi, ma insomma con i tanti alti discretamente recenti ancora, non può essere considerata proprio un outsider. Outsider sarebbero Polonia, Ucraina, Grecia, la stessa Russia. La Francia già fa parte, tant'è vero che i bookmaker stessi la danno a 10 e l'Italia è data a 12, quindi è la quarta favorita nelle previsioni degli alibratori. Andrea, provincia di Modena, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Dica. Sento parlare di difesa a 3, quindi sembra che Prandelli schiererà la difesa a 3. Mi domandavo, ma chiamare Paolo Cannavaro, visto che è abituato a giocare nella difesa a 3 nel Napoli, che non credo sia una squadretta, qui o Mazzarri è pazzo, fa guidare la difesa della sua squadra da Paolo Cannavaro, oppure Prandelli è stato molto elegante quella volta in cui motivò le esclusioni, anzi le mancate convocazioni di Cannavaro, con la motivazione appunto che Cannavaro è abituato a giocare nella difesa a 3. Cosa ne pensa? Io penso che se sceglie Astori avrà le sue buone ragioni. C'è Criscito che riavanza la sua candidatura, sostiene di aver avuto la promessa che se per caso ci fosse stata una defezione per ragioni fisiche sarebbe stato toccato lui essere riconvocato. Albertini l'ha smentito. Cannavaro è un'altra soluzione. Di Ruud Krol, per dire di grandissimi difensori non convocati, non ce n'è di scuola italiana, e quindi si cercherà di fare cercherà Prandelli di fare per il meglio, certo sapendo che di tutti i difensori che aveva a disposizione quello più affidabile, dei centrali a disposizione quello più affidabile era certamente proprio Barzagli. Salvatore dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascolti, volevo dire, premesso che in Italia siamo tutti un po' allenatori, quindi ci sentiamo di dire un po' la nostra opinione riguardo alla nazionale. Dico così, io guardando la partita con la Russia mi è sembrato di vedere un Cassano davvero un po' fuori forma, che non aveva spunti cioè non aveva più quel guizzo che mi sembrava avesse prima che avesse l'infortunio, ovviamente quello è naturale, ma Prandelli ha voluto portarlo per forza, ma credo che anche sia giusto, anche perché è molto bravo quando è in forma. E credo che lì dovrebbe giocare Giovinco, Balotelli, Fissi, sarebbero, secondo me, se sono in giornata e giocano bene, devastanti. E poi non capisco proprio quel Montolivo in mezzo al campo, quello che Prandelli, non, io magari non ne capisco, magari sono ignorante, però io francamente Montolivo in mezzo al campo non lo capisco proprio, anche perché secondo me, a mio avviso, si disturba con Pirlo che è lì dietro, dietro di lui, non si sa chi deve impostare, secondo me anche di intralcio Pirlo, visto che lui tende ad avanzare, a sto punto è meglio tenere un po' più avanti Pirlo, è un altro centrocampista che... Per quel che si è visto l'altra sera con la Russia sono completamente d'accordo con lei, Montolivo non ha questo gran senso, in questo momento perlomeno, Giovinco è molto più vivo, molto più improvvisatore, molto più giocoliere in questo momento, perlomeno in questa fase di Cassano. Allora, puoi dire che Cassano, dire che Balotelli e Giovinco siano devastanti, io ho l'impressione che lei abbia sentito troppe telecronache recentemente che sono proprio devastanti, andiamoci piano. Sono al di là del fatto che non è un aggettivo meraviglioso, ma insomma, prendendola un pochino più bassa, certamente hanno più... hanno più forma in questo momento, hanno più gamba, anche se la gamba di Balotelli sembra fare qualche piccolo capriccio, e sempre sperando che i capricci non li faccia la sua testa, perché anche l'altra sera contro la Russia negli ultimi minuti non ci siamo andati lontanissimi. Luigi da Brescia, buongiorno. Buongiorno, sono Garanzini. Ascolti, io volevo esulare un po' dall'argomento tecnico e tornare sul discorso un po' giudiziario. A volte mi chiedo se tutti gli sport abbiano lo stesso diritto di dignità e se tutti siano uguali, perché io a volte faccio il paragone tra il calcio e il ciclismo. Se nel ciclismo, quando tu vieni, si suppone tu venga trovato positivo a un controllo antidoping, vale la presunzione di innocenza, dovrebbe valere per tutti gli sport come per il ciclismo, tu non dovresti, o se vieni fermato e dovrebbe valere per tutti, oppure se non vieni fermato poi dovresti subire il tuo processo e venire fermato in un secondo tempo. Perché nel calcio questo non succede? Perché non vengono fermati in attesa di processo? Cioè hanno tutto, è uno sport che penso che a livello di guadagno e di ricchezza, soprattutto in questo momento di fronte al paese, possa essere anche un leggero insulto che Buffon dica io dei miei soldi faccio quello che voglio, però capisci che 1,5 milioni di euro spesi in un anno puoi anche fare quello che vuoi, però da un punto di vista morale e etico non credo che sia molto corretto, però vabbè, non stiamo sindacando questo. Io mi chiedo perché non ci sia lo stesso trattamento rispetto ad altri sport come l'atletico e il ciclismo. Perché non c'è la stessa possibilità di accertamento immediato, cioè nel ciclismo c'è un prelievo che ti dice immediatamente sei dentro o sei fuori. Nel calcio ci sono delle intercettazioni, delle informative, delle indagini che hanno bisogno di riscontro, e avendo bisogno di riscontro hanno bisogno di più tempo. E quindi io poi sarei, se lei mi parla della fase invece successiva all'indagine, cioè della fase giudiziale, allora io sarei d'accordo con lei. Dopo non ci sono compromessi, non ci sono sconti, non ci sono patteggiamenti e così ci possono essere solo squalifiche dure, però prima è molto più complicato l'accertamento di un'accusa rispetto, ripeto, a un prelievo che ti dice l'ematocrito è così o è cos'ha, ci sono tracce di questo o di quell'altro. Mi pare che la differenza non sia da poco. Sentiamo su Barzagli che cosa dice il professor Castellacci e che margine di speranza dà per il recupero del centrale italiano. Dopo la partita della Russia aveva un problema al polpaccio sinistro. Stamattina abbiamo eseguito determinati accertamenti che hanno evidenziato uno stiramento di primo grado sul soleo di sinistra. Potremmo al limite cambiare il giocatore 24 ore prima dell'inizio del nostro campionato europeo. Per cui noi ci avverremo dei prossimi giorni per tentare, comunque, data l'importanza del giocatore, chiaramente tutto ciò concordamente alla CT e al mister Prandelli, e ci avvarremo appunto di questi giorni per cercare un recupero in extremis del giocatore. Non convocare Acerbi è stato un errore da parte di Prandelli e non da poco, scrive Armando. Beh, Acerbi è un giovane emergente, poteva essere un'altra candidatura. E lui invece pare stia scegliendo Astori, quello del Cagliari. Pare, poi stiamo a vedere, avete sentito il professore, hanno tempo fino a sabato per, per decidere se rischiare il recupero di Barzagli, che mi sembra abbastanza da escludere, oppure se invece provare a scommettere, e su chi in questo caso. Luca, provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno Garanzini. Ascolti, le rubo pochissimo tempo a proposito dei vari Carobbio, come lei ha detto ieri in trasmissione. Nel senso, io sono un tifoso e al di là delle pene irrisorie, ognuno pensa come gli pare, che gli appioperò la giustizia sportiva, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di un tifoso, che è l'anello più debole della catena, perché ci sono soldi in gioco dappertutto, da parte della società, da parte dei giocatori, io ho solo la mia passione, ci metto quella sul piatto, e questa gente ha tradito la mia passione. Quindi non so in che squadra andrà a giocare Carobbio fra 20 mesi, quando e se. Io gli auguro sinceramente a lui, ai vari Ruopolo, a tutti quelli come loro, di andare, non so, a stendere dall'asfalto, a fare quei lavori che in Italia ormai non vuole fare più nessuno. La saluto. Grazie Luca. Roberto, provincia di Belluno, buongiorno. Sì, buongiorno Granzini. Volevo un'informazione per quanto riguarda l'Inter. Ho sentito delle voci, volevo sapere da lei se sono veritiere o meno. Vabbè. Che l'Inter si starebbe per costruire uno stadio di proprietà, se sì, dove e in quanto tempo, insomma. Tre domandine da niente, no? Allora, di stadi di proprietà se ne, non solo per quanto riguarda l'Inter, si sente parlare da tempo. Si sente parlare per l'appunto, progetti esecutivi che si sappia al momento non esistono, e quindi valuti un po' lei in ogni caso quali sarebbero i tempi di attuazione. Nulla che possa riguardare le prossime stagioni, nel senso di in termini un po' immediati. Compenso San Siro si sta rifacendo un manto sintetico, no? Mezzo erboso e mezzo sintetico. Questa è l'unica cosa certa sul futuro delle milanesi in questo caso, sul futuro immediato. Ultimo intervallo, strade. Viste le titubanze su Montolivo, scrive Filippo, alla provincia di Bologna, cosa ne pensa di Diamanti? Perché secondo me assicura corsa, pressing, riesce a portare su la squadra prendendo palla al centrocampo. Cosa ne pensa? Penso che quelle sono le caratteristiche di Diamanti giocando nel Bologna. Credo che ci sia sempre un salto da tenere presente tra la dimensione nostrana, e tra l'altro in questo caso di classifica medio-bassa, e una dimensione europea, e questo è un parametro che un selezionatore non può non tenere presente. Dopodiché Diamanti ha qualità tali da essere stato convocato tra i 23, prima o poi avrà probabilmente la sua occasione, magari dimostrerà di saper fare questo salto. Al buio andiamoci pianino. E sentiamo Nicolino Filippone, che torna in grande stile in occasione degli europei con il suo marcor, con la sua data, oggi in questo caso il 5 giugno, dedicata per l'intero prossimo mese proprio ai campionati europei. Ieri. 5 giugno 1968. È una monetina a decretare il passaggio dell'Italia di Valcareggi alla finale del campionato europeo. A Napoli l'Unione Sovietica si conferma un avversario spigoloso, anche se gli azzurri, nonostante un Rivera a mezzo servizio infortunatosi dopo pochi minuti, controllano la partita e potrebbero andare in vantaggio a fine gara se il palo non dicesse no a Domenghini. Nemmeno i supplementari sbloccano l'incontro e, non essendo ancora previsti i calci di rigore, la sfida si decide nello spogliatoio dell'arbitro, dove Capitan Facchetti esce vincitore dal sorteggio. L'Italia così guadagna la finale di una competizione internazionale per la prima volta dopo il ciclo trionfale di Vittorio Pozzo. E quella finale poi la vincerà contro la Jugoslavia nella ripetizione, perché la prima partita finì in parità. Nicola Filippone fornisce anche un numero al giorno, un numero curioso, riferito appunto a tutte le edizioni degli europei. Il numero di questa prima puntata è 18.000, praticamente meno di un terzo della capienza dell'impianto, perché furono 18.000 gli spettatori che assistettero alla finale della prima edizione, 10 luglio 1960 al Parc des Princes di Parigi, in campo Russia e Jugoslavia, 2-1 per i sovietici dopo i supplementari, e per l'appunto il pubblico francese deluso per l'eliminazione della Francia, battuta in semifinale dalla Jugoslavia, si disinteressò di questa finale. Allora non c'erano le migrazioni di massa delle tifoserie dagli altri paesi, beh, meno che mai dall'Unione Sovietica in quegli anni, sicché insomma, meno di 18.000 persone, quindi un terzo della capienza del Parc des Princes, si tettero alla finale della prima edizione. La Errani nel frattempo ha vinto il primo set contro la Kerber per 6-3, quindi l'avventura è cominciata, anzi sta continuando nel migliore dei modi. C'è in linea Giovanni che ha chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno, salve, io volevo spezzare una lancia nei confronti della scelta di Prandelli di chiamare Astori, perché mi sembra che sia un ottimo difensore, abbia i requisiti per poter eventualmente superare la difesa italiana, anche perché ha fatto un buon campionato a Cagliari, nonostante il Cagliari non segnasse, e quindi ha retto la difesa portando la salvezza, diciamo, alla squadra, ecco. E condivido anche le perplessità su Montolivo, che non mi sembra un giocatore di spessore in tutto qua. Io credo invece che sia un giocatore di qualità. Montolivo forse non è nel suo miglior momento. Lei tra l'altro ha chiamato da Modena e proprio in questo momento vedo un'ultima ora sul display di Sky che è morta una donna in ospedale per le conseguenze del terremoto, e quindi il numero delle vittime per il terremoto in Emilia è salito in questo momento a 25. Tocca a Lorenzo da Treviso, buongiorno. No, da Treviso, da Torbole sul Garda, ma fa lo stesso. Da Torbole sul Garda, chiedo scusa. Dica. No, si figuri. Allora, io temo che l'avventura europea della nazionale, temo che non durerà. Secondo me ci sono troppi pochi juventini, ne volevano far fuori altri due, con inchieste extra calcistiche. E purtroppo, come sappiamo, quando ci sono pochi juventini, la nazionale non vince. Che la nazionale ha sempre preso a piene mani dalla Juventus, nonostante la Juventus da questa nazione riceva continuamente schiaffi, insulti anche ai propri morti. La saluto, arrivederci. Saluto lei Lorenzo, stupendo questo comunicato in stile Brigate Rosse, no? Per cui finita l'ultima mezza parola, pum, il ricevitore che viene attaccato. Ma perché io dico farsi riconoscere ogni tanto in maniera così, no? Così, perché non lasciare il dubbio e invece così uscire davvero con la biancheria in questa maniera. Dunque, Van Basten, ecco, meglio di tante telefonate, no? Van Basten che dice la sua sull'affaire Thiago Silva piuttosto che Ibra, perché uno dei due ormai si è capito, il Milan lo mollerà. È importante il giocatore individuale che sono capace a decidere una partita, però il gruppo, di essere un gruppo forte, di essere insieme, la mentalità eccetera eccetera, l'atmosfera, sono cose che sono anche molto importanti. Ogni allenatore vuole i giocatori più forti, lui è un grande difensore, quindi aiuta la squadra, anche lui un grande giocatore. Negli ultimi anni ha fatto vincere l'Inter, ha fatto vincere la Juve, ha fatto vincere con Barcellona, ha vinto il campionato, adesso ha vinto anche con il Milan il campionato, quindi è un giocatore importantissimo. Milan deve cercare di trovare un modo in cui sarà contento lui, tutti gli altri, quindi insieme devi cercare di vincere, non da solo è possibile. Bisogna fare una selezione più accurata degli interventi telefonici, scrive Jacopo da Vicenza. Jacopo, venga lei a dare una mano a Rosa al centralino, che le garantisco è bravissima e ogni giorno fa un lavoro di filtro che non le dico perché l'umanità è curiosa, è variegata e curiosa, mi creda. Anche in aziende editoriali, diciamo, di un certo profilo, come può essere Radio 24, come può essere il Sole 24 Ore. Ma mi creda che l'umanità variopinta bussa a suo modo e ripetutamente anche a queste utenze. Marco Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Noi ci siamo sentiti l'indomani di Lecce Juve 1-1, sì. Quando ha tacciato me e altri 3 o 4 radioascoltatori di concorrenti a un concorso comico, quando dubitavamo di Buffon. Eh beh, certo, con quello che sta uscendo oggi, le sta parlando un aficionado al gioco, chiamiamolo così, sì, anche se è molto... io quell'uno a uno lì, con quello che sta uscendo adesso, anche se si tratta di fatti precedenti, lo vedo ancora che puzza. Sì, e quindi io cosa dovrei fare? No, lei ha rivisto un attimino la sua, il suo pensiero. Io non ce l'ho con la Juve, No, ho capito bene. La Juve, a proposito di filtro al centralino, Marco, io guardi, le posso dire questo, le posso dare un consiglio. Il bullying, il curling, questi secondo me sono discipline interessanti che vanno seguite un po' di più, insomma, bisogna incoraggiare l'uso del curling, l'uso del bowling, l'uso di queste discipline. Il calcio magari, lasciamolo un po' perdere. Diego, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno, salve. Ora io non vorrei andare a toccare un tasto che va un pochino fuori tema, ma mi sono messo a chiamarla prima quando ho sentito il commento su Buffon. Purché se la cavi in 30 secondi va tutto bene. La cavo in 30 secondi perché vorrei tirare un sasso nello stagno e sposare una causa, perché voi siete fortissimi nello sposare le cause, trattare queste cose come delle malattie vere e proprie. La malattia da gioco è una dipendenza come la droga. Gli italiani si stanno rovinando e lo Stato ha legalizzato gli slot show, le sale corse, tutte queste sale scommesse, ma sia Buffon, perché ha un portafoglio da milioni, però si rovinerà anche lui, vanno trattate come malattie, curate come tali. E lo Stato ha legalizzato una malattia come se diventasse uno spacciatore di droga. Punto. Volevo precisare questo. Io le dirò che calando leggermente gli accenti magari e misurando un tantinello di più, non tanto i toni quanto le parole, io tanto tanto lontano da come la pensa lei certamente non sono. Uno pari nel secondo per l'Errani che ha vinto 6-3 il primo, grazie a Matteo Comes in regia, grazie a Franco Piattanini in redazione, a domani, buon pomeriggio.